Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Olè, ciao Chiara. Eccoci qua finalmente, ciao Federico, buonasera a tutti. Incominciamo dagli elefanti che non si ammalano di cancro, pensa. Allora questo deve centrare con noi. E poi invece, insomma, abbiamo una grana scientifica, c'è un po' di aria di dolo, di truffetta in giro. Una mala ricerca probabilmente. Arriviamo a parlarvi anche di questo, via. Partiamo. Salutiamo subito il nostro ospite che si trova in Tanzania e buonasera Lucio Luzzatto. Buonasera, è piacere di sentirla e saluti a tutti gli ascoltatori, Radio 24 quando sono in Italia la sento sempre. Evviva, molto bene. Grazie. Allora, io non sto ad elencare il suo profilo, Lucio Luzzatto, lo dico agli ascoltatori, è uno dei nostri grandi ricercatori di punta, ha diretto centri di ricerca in tutto il mondo, è uno proprio di fascia alta. Adesso si trova in Tanzania e alla fine lo spiegheremo il motivo. Potrebbe sembrare che si trovi, ma lo svegliamo dopo. A caccia di elefanti. Non è così, perché Lucio Luzzatto ha scritto sul Domenicale del Sole qualche settimana fa un articolo sul tema patologia comparata, ovvero quella ricerca che va a vedere patologie che sono presenti negli animali e anche in noi altri animali, ma diciamo ci chiamiamo umani, e cerca di facendo questi confronti di capire se c'è qualcosa di interessante da conoscere. E il suo articolo, Luzzatto, iniziava con una suggestiva provocazione e diceva: ma come mai gli elefanti non hanno il cancro come ce l'abbiamo noi, cioè non lo prendono sostanzialmente? Vogliamo partire da qui? Sì, come lei ha detto, mi sono trasferito in Tanzania e continuo a fare l'ematologo. Naturalmente la domanda è abbastanza ampia. Devo subito precisare, diciamo, che a livello scientifico sarebbe esagerato dire che gli elefanti non prendono i tumori. Del tutto. Piuttosto, esatto, che data la massa corporea e dato il fatto che in prima approssimazione il rischio di un tumore è proporzionale al numero delle divisioni cellulari, e le divisioni cellulari per fare un elefante devono essere probabilmente circa 10 o 100 mila volte di più che per fare un umano, ci si aspetterebbe un rischio molto alto. E invece dalle statistiche, che ovviamente vanno prese con un grano di sale, perché sugli elefanti ovviamente allo stato di libertà, perché è il loro stato naturale, naturalmente sugli elefanti in libertà non abbiamo un registro tumori. Sugli elefanti che sono negli zoo, i tumori sono molto rari, e certamente più rari di quello che ci si aspetterebbe, considerando che invece la loro notevole massa corporea li metterebbe a un rischio semmai molto più alto degli umani, e dunque è un po' strano che invece siano così rari i tumori. In un certo senso, se volessimo metterla con un esempio un po' diretto, insomma, se noi tiriamo delle freccette a un gatto oppure a un elefante, l'elefante è molto più grosso, dovremmo prenderlo più facilmente. Il paragone la devo complimentare, il paragone è buono, che molto spesso noi, diciamo in modo un po' fumettistico, rappresentiamo le mutazioni somatiche, cioè nel corpo, un po' come delle freccette, è un evento casuale. Però, professore, c'è allora un'ipotesi che si fa, un perché, una spiegazione del fatto che appunto l'elefante con questa massa corporea così consistente non si ammala di cancro, come ci ha scritto lei? O molto meno, insomma, molto molto meno. È uscito un lavoro sul Journal American Medical Association, che tra l'altro è una ottima rivista, ma è più, diciamo, di medicina applicativa più che di ricerca di base, eppure hanno pubblicato un lavoro sugli elefanti un po' remoto dalla clinica umana, perché appunto questa ipotesi è molto interessante e ha a che fare con questo, che noi tutti, umani e tutti i mammiferi, insomma la maggior parte degli animali, abbiamo dei meccanismi che noi chiamiamo tumor suppressor, cioè siamo a rischio di cancro per il motivo che abbiamo detto delle mutazioni somatiche, ma proprio per questo l'evoluzione ha selezionato delle specie di meccanismi di difesa o diciamo di almeno cessato allarme. Cioè quando avviene una mutazione nella cellula ci sono dei guardiani, c'è una specie di servizio di ronda che continuamente fa la ronda sul DNA e sorveglia che cosa sta succedendo sia nella replicazione del DNA sia nella replicazione della cellula nel fenomeno chiamato mitosi, cioè la divisione cellulare. Sì. Cioè nei punti cruciali dove può succedere un errore, lì c'è il monitoraggio, c'è la ronda come io la chiamo, e uno dei principali attori di questa ronda è una proteina che in gergo viene chiamata il P53, qualche P53. Anno fa la Science l'ha chiamato la proteina dell'anno, ecco, e questa proteina è cruciale per la sorveglianza della cellula, quello che ho chiamato il servizio di ronda. Infatti noi abbiamo, ognuno di noi, due coppie del P53, uno materno e uno paterno. Mm. L'elefante invece di avere due coppie del P53 ne ha ben 18. Ah. Dunque ha come un eccesso o perlomeno un numero molto più alto di sorveglianti. C'è più vigilanza. Come se li avessero appunto adibiti a essere molto efficienti. Lucio Luzzatto, oltre a guardare dei bellissimi elefanti, che cosa sta facendo in Tanzania di importante? Sono venuto in Tanzania perché i problemi ematologici qui in Tanzania sono molto pressanti, soprattutto problema genetico che è quello della sickle cell anemia o anemia drepanocitica o anemia a cellule falciforme, una malattia che per vari motivi anche biologicamente interessanti è molto frequente in Africa tropicale e ad esempio in Tanzania, dove si calcola che ogni anno nascono probabilmente tra 8 e 12 mila casi nuovi all'anno. Lei è lì per prestare la sua ricerca, per trovare una cura o anche sistemi di monitoraggio per appunto le donne che hanno figli che hanno questa patologia? La ringrazio, guardi, io è molto pertinente la sua domanda perché le sto parlando, sono in una stanza dove è localizzato il progetto appena avviato di screening neonatale per la sickle cell anemia, ecco. Qui ad Dar es Salaam. Dunque questa è una delle misure che si può prendere per fare la diagnosi alla nascita in maniera da proteggere il bambino fin dalla nascita. Certo. Ad esempio devo anche dire che in alcuni paesi europei questo sta già succedendo, ma altri no. E secondo me dovrebbe succedere, ecco. Chiaro. E l'altra cosa che cerchiamo di fare è di, siccome c'è un unico farmaco, la idrossiurea, che è attualmente dimostrata efficacia in questa malattia, stiamo cercando di mettere su un sistema per il confezionamento locale di questo farmaco in maniera da riuscire a soddisfare molti dei pazienti a prezzo minimo. Bene, davvero complimenti professore, noi le facciamo in bocca al lupo, davvero un buonissimo lavoro. Grazie. Arrivederci, buon lavoro. Grazie, grazie. Veloci al traffico e alle notizie che lo riguardano. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora, vi dicevamo nei titoli che c'è un caso di, insomma, come possiamo chiamarla, di mala ricerca. Mala ricerca, esattamente. No, c'è in corso un'inchiesta, quindi non esprimiamo giudizi più netti, però insomma ci sono delle evidenze abbastanza forti. C'è da dire che l'inchiesta è partita da un intervento della senatrice Elena Cattaneo, per cui esatto. Appunto, essendo una ricercatrice anch'essa, certamente ha le sue ragioni. Parte bene. Elena Cattaneo, tra l'altro, è una delle nostre ricercatrici, insomma, scienziate di prima fila. Abbiamo ospiti qui con noi questa sera a Möbius. Roberto De Fez, buonasera e ben ritrovato. Buonasera a tutti. Lei è genetista del CNR di Napoli. Napoli, come diciamo la Federico II di Napoli, è coinvolta in questa inchiesta, che non l'abbiamo detto ancora, ma adesso ve la raccontiamo. Gira intorno insomma agli OGM, alla mala ricerca sugli OGM che è stata fatta da un ricercatore in particolare. E poi? Poi abbiamo Enrico Bucci. Buonasera, Bucci. Buonasera. Lei è direttore scientifico e amministratore delegato di un'azienda, la Biodigital Valley, che è specializzata in analisi dei dati biomedici, ed è per questo che lei è stato consultato. Allora partiamo da De Fez. De Fez, vogliamo un po' ricordare questa storia. Elena Cattaneo ha inviato una lettera a un ricercatore della Federico II di Napoli, Federico Infascelli, che è docente ordinario di nutrizione e alimentazione nel Dipartimento di Veterinaria dell'Università, sollevando un problema molto forte rispetto a una serie di suoi articoli. Ecco, ci ricordi un po' la cosa, De Fez? Sì, tutto questo comincia l'8 luglio dello scorso anno, quando sia il professor Infascelli che io andiamo in audizione alla Commissione Agricoltura del Senato per relazionare sulla tematica degli organismi geneticamente modificati. Ecco. Quindi io faccio la mia audizione, vengo audito dalla Commissione con una serie di domande, il professor Infascelli fa la sua audizione e la professoressa Cattaneo solleva dei dubbi scientifici sul merito degli articoli scientifici proposti da Infascelli. Per chiarezza, forse bisogna evidenziare che voi in quel momento a luglio eravate stati chiamati in audizione al Parlamento, al Senato, perché dovevate esprimere quella che era la vostra ricerca, non c'entrava niente l'inchiesta e diciamo eravate lì come figure autorevoli in questo campo. Come esperti del settore, esatto. Diciamo io sul fronte dei come dire favorevoli o quantomeno ottimisti sull'utilizzo delle tecnologie che portano a piante geneticamente migliorate, okay. E il professor Infascelli sul fronte come dire opposto dei critici. Quindi il primo dialogo è un dialogo confidenziale, personale, tra la professoressa Cattaneo e Federico Infascelli. Quindi lì finisce questa storia e prosegue con una lettera della professoressa Cattaneo in cui, dopo le parole personali dette come dire in maniera confidenziale, la professoressa esprime tutti i suoi dubbi per iscritto in una lunga lettera di credo 9 pagine in cui cita letteratura scientifica, va nel merito della vicenda. La lettera è della fine di luglio 2015. La lettera, quindi, si trova in rete, si può visionare, insomma è veramente dettagliatissima e la professoressa, la senatrice, entra proprio nel merito della ricerca. Esatto. A questo punto la parte scientifica vera e propria termina, perché nel leggere gli articoli scientifici del professore Infascelli la professoressa si imbatte in qualcosa che sembra strano, ossia delle foto, delle immagini che sembrerebbero essere state alterate. Quindi a questo punto la parte scientifica sugli OGM, sulla discussione, sul dibattito pubblico termina e inizia una nuova vicenda in cui la professoressa dice: guarda, io vedo delle cose che sono molto strane sui tuoi lavori scientifici. Allora, mi puoi spiegare bene di che cosa si tratta? Passiamo subito a questo dato e sentiamo Bucci. Lei ha fatto un'analisi delle fotografie. Ricordiamo qua però che è partita subito con molta forza e molta intensità da parte dell'Università Federico II un'inchiesta. Questo è un fatto molto importante. Federico II c'ha anche dei regolamenti molto forti, no? presidiare la qualità delle attività di ricerca. E forse c'è anche da dire che Infascelli ha un ruolo importante nell'università, e per questo che l'università è subito è in qualche modo rapidamente. Mossa, ecco. Allora Bucci, lei ha guardato queste foto? Sì, io sono partito ovviamente dalle immagini che originariamente erano state identificate dalla professoressa Cattaneo e poi, come si fa in questi casi, ho esteso l'analisi diciamo a tutte le pubblicazioni del gruppo del professor Infascelli e il risultato di questa analisi è stato che in analogia con quanto si osserva spesso anche in altri settori vi era un consistente numero di manipolazioni. Queste manipolazioni sono risultate tutte concentrate negli articoli diciamo contenenti dati di ricerca sugli OGM del gruppo del professor Infascelli, e poi andando all'indietro è stato possibile risalire fino a una tesi di dottorato diciamo che è stata la sorgente di alcune di queste immagini manipolate, vale a dire si è ricostruita una sorta di genealogia di immagini che passando da un articolo all'altro venivano riutilizzate, venivano cambiate. Quindi un malcostume che va avanti da parecchi anni. Beh, in questo momento naturalmente non spetta a me dire se certo, è un malcostume. Quello che mi limito ad osservare è che dal 2006 sono presenti immagini manipolate in una tesi che vengono successivamente ulteriormente manipolate e riutilizzate variamente. Questo è un filone. Poi vi sono manipolazioni indipendenti ulteriori nel corso degli anni. Cosa vuol dire manipolazioni? Prego. Però Bucci, ci spieghi in che senso sono manipolate? Esattamente, sono immagini che vengono manipolate esattamente come avviene per esempio sulle riviste di moda in cui, non so, si fa dimagrire un'attrice. Esattamente, per usare una cattivissima parola. Sì. Il concetto è che però l'immagine scientifica non rappresenta un modo di comunicare un'idea o una tesi come può essere un'immagine artistica, ma rappresenta un dato. Certo. Quindi deve essere assolutamente integro, perché altrimenti qualunque conclusione noi vogliamo trarre non è fondata in maniera solida. Quindi nel caso specifico si traggono delle conclusioni contro l'uso degli OGM, ma questo è assolutamente irrilevante, cioè la conclusione che io traggo dalla discussione o la mia idea è assolutamente irrilevante rispetto al fatto che i dati possano essere stati manipolati. Che immagini erano? Che cosa ritraevano? Allora, in questo caso erano tutte immagini che afferivano a una tecnica particolare, è una tecnica che serve da studiare la presenza di frammenti di DNA o in altri casi di proteine, per esempio nei tessuti degli animali diciamo alimentati con cibo transgenico. Se è possibile in questi tessuti ritrovare un DNA proveniente o frammenti di questo DNA provenienti dal cibo transgenico e in particolare DNA proprio appartenente al gene aggiuntivo introdotto in questo organismo, l'ipotesi è i transgeni che io metto nel cibo che va agli animali poi vanno nel tessuto dell'animale, e nel caso dei lavori del professor Infascelli si arriva fino a sostenere che modificano poi la fisiologia per esempio dei capretti che si alimentano con il latte di capre alimentati con cibo transgenico e così via. Beh, quindi si ottenevano dei risultati potenti e molto manipolati. Poi ovviamente bisognerà vedere, perché lui si difende in qualche modo Infascelli. Ma De Fez, se non sbaglio, non è che in questi articoli Infascelli dice che gli OGM fanno male, e questa è una cosa che sta circolando poco, è un po' sottile. Guardi, è un punto determinante questo, perché è l'abitudine di non leggere i documenti, leggere i titoli, interpretarli e, come si faceva nei giochi da bambini, nel passaparola da un bicchiere d'acqua diventa un iceberg che si sta muovendo. Federico Infascelli, nell'articolo scientifico più importante di tutto questo lungo percorso, l'articolo del 2010, in cui alimenta conigli, in quel caso, con soia OGM e con un'altra soia che nessuno ha capito da dove venga, questo è il vero problema scientifico, ma lasciamolo perdere, conclude la parte della sintesi dell'intero articolo dicendo: io ho fatto tutta questa serie di analisi, succede questo e quell'altro, ma i capretti pesano identici alimentati con soia OGM o con soia non OGM, e se prendo tutti i singoli organi dei conigli, mi scusi. E se prendo i singoli organi, tutti gli organi hanno lo stesso peso. A dire che poi è un effetto ipotetico, ma che lui non riesce nemmeno a valutare, a misurare. E a proposito di questo, infatti, chiediamo a Bucci, che è anche ricercatore, anche lui, quindi conosce il metodo scientifico, conosce qual è l'iter per andare a pubblicare su una rivista internazionale. Quindi, Bucci, scusi, ma com'è possibile? Allora, la Cattaneo è, è una persona preparatissima, quindi ha avuto subito evidenza, esatto, che ci fosse qualcosa che non andasse. Però gli articoli scientifici sono sottoposti a review, a controlli molto Ferrati, com'è possibile che non si sia notato prima, così addirittura delle immagini manipolate e dei risultati manipolati per un numero 8. Così consistente di articoli scientifici? Ma la risposta è molto semplice, questa è una domanda che, diciamo, mi viene rivolta spesso. Il problema è che i cosiddetti referì, cioè coloro che valutano se un articolo sia adatto o no per la pubblicazione su una rivista scientifica, non controllano i dati, controllano la coerenza di ciò che si viene detto e l'innovazione contenuta in quello che viene detto. C'è anche da fare un'aggiunta ulteriore. Vi sono alcune riviste, ormai parliamo nel numero di migliaia, tra cui la rivista che ha ritrattato il primo degli articoli, cioè lo ha ritirato perché un'immagine era stata riutilizzata, che sono riviste cosiddette predatorie, cioè vale a dire riviste che a fronte di un compenso in denaro da parte degli autori pubblicano un articolo. Questa rivista in particolare, che ha basata, diciamo, in Cina, proprietà cinese e basata in Cina, è esattamente una di quelle riviste ben note per essere predatorie, perché semplicemente non riguardano i lavori, vengono pagati e li ripubblicano. Va bene, credo che abbiamo fatto abbiamo fatto un po' generale di pulizia, diciamo, dalle informazioni un po' errate che erano girate. Negli ultimi tempi. Grazie Defet, grazie Bucci e buona ricerca, davvero. Arrivederci. È un po' come quelli che su Facebook mettono le foto di quando avevano 20 anni. Si cancellano un po' di rughe, qualche cellula e via. Vabbè, adesso a parte gli scherzi torneremo su questa vicenda, ne seguiremo gli esiti. Anzi, vi avvisiamo che questa intervista in realtà il tema è molto lungo e approfondito, quindi abbiamo realizzato una versione un po' più lunga per il blog, lo trovate su www.radio24.it e per oggi è tutto. Buona settimana a tutti e a tutte, ciao!